parlare con la tua nuova voce. Andando al ritmo di un treno. In una città che non ti dà lavoro. In una città che nasconde il futuro. Dove è difficile persino parlare. Dove le note sono fonte del mare. Cantare per dire, fare rumore, insomma per rabbia, un po' per amore. Cantare il tuo rock, cantarlo da solo, aprire le